morire alla fine. Eh sì, perché molti ragionatori devono morire e muoiono anche io. Maledetti, guarda cazzo. E infatti mi sono sbagliato anche questa storia l'avevo sentita, un bel po' di anni fa è successa. Sì, avevano ma gente sprovveduta, ignorante, cosa, perché quando mai uno già con una donna nuova non ti devi fidare molto. Figurati se poi la prostituta che si fa un bel di gente e cosa, andare senza precauzione, senza preservativo, figurati, può succedere. E infatti, ma per un male sembra che ancora sassi ce ne siano lì, sempre il solito posto lì in viale Porto Torres. Aspetta il telefono un attimo già. Quello ci sono sempre, faccio un altro stop. Già, mi devo sentare 10 minuti, devo scendere un attimo da mamma. Se ci sei riprendo come risalgo. Non sto uscendo già. Ho detto non c'è problema. Eia, ci sentiamo dopo, sei più su 5 6. Sì, sono qua in ascolto. Eia, già faccio in fretta.